fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. State ben attenti ai vampiri dalla mesta esistenza. Occhio alle sanguisughe dalla lunga degenza. Salvatevi dalle amebe del sentimentale astinenza. Questo l'ho scritto 3 secondi fa nel mio profilo Facebook, perché questa mattina vorrei dedicare la trasmissione alla meravigliosa genia di esseri umani che si lamenta per professione. Quelli che piangono sempre, quelli che si piangono addosso, quelli che ti fanno sentire in colpa soltanto perché sei in buona salute, quelli che come vampiri ti si attaccano alla gola e ti portano immediatamente addosso il fardello della loro triste esistenza. A me non fanno pena. Sono le persone che in realtà in una soluzione, in una sintesi felice e dialettale, chiagnano e fottono. Beh, io faccio, devo dire, lievemente parte di quelli che quando uno domanda come stai dice si sopravvive, oppure che devo dire, da povero vecchio, ma da povero vecchio dico da quando avevo 20 anni. È una maniera per mettere in difficoltà il proprio prossimo, per farlo sentire in inferiorità o perlomeno per istigare il senso materno, il bisogno di occuparsi di te. È uno stratagemma sin troppo facile che però, quando viene usato con insistenza e diventa uno stile di vita, rappresenta un pericolo dal quale bisogna guardarsi. Chi sono i lamentatori per professione? Quante volte nella nostra vita ci siamo incappati in persone che avevano questa sorta di sguardo appannato, questo sorriso sempre spento, quest'aria sempre dimessa, e in realtà sono le persone che più si sono approfittate della nostra vita. Perché? Perché lamentandosi, facendosi compiangere, commiserandosi, in realtà si acquisiscono dei grandi vantaggi nei confronti del nostro prossimo. Nessuno ostenta ilarità, ostenta felicità, a meno che non abbia fatto lunghi anni di terapia psicoanalitica, allora sì che risponde. Come va? Ottimamente, perfettamente, felicemente, non potrebbe andare meglio. Questa è un'altra categoria di persone di cui parleremo un'altra volta. Sono gli ottimisti a tutti i costi, altrettanto irritanti e altrettanto pericolosi, perché ci fanno sentire nel nostro quotidiano e moderato senso di sopportazione abbastanza soddisfatta la nostra vita, quasi degli esseri infelici. No, oggi vogliamo parlare invece degli scrocconi professionisti di attenzione e di cure attraverso l'arte del farsi compiangere. 800 24 00 24, cominciamo a mettere a punto quello che è il sistema e l'aurea formula del farsi compiangere per fregare il nostro prossimo. Cos'è un lamento? Il lamento è pianto, gemito, piagnucolio, guaito, e corrisponde al tono di voce del vostro partner quando vi chiede di andare all'IKEA. Il lamento è compianto, lamentela, lagnanza, recriminazione, reclamo, protesta, rimostranza e rammarico. È un verso o un suono flebile e malinconico, come il lamento del cuculo che prima ciula il nido agli altri uccelli e poi si lamenta perché l'ICI del tiglio è troppo alta. È una protesta contro ciò che viene vissuto come disgrazia, ingiustizia, anomalia del destino. È quello che fate voi quando il bucato in lavatrice stinge e vi colora tutto di rosa. Voi vi lamentate spesso. Di che cosa? Non lo sappiamo, né vogliamo saperlo. Sono problemi vostri che non ci riguardano. Voi avete bisogno di essere infelici e lamentarvi perché è disprone alla vostra triste esistenza e ricarica la vostra energia vitale negativa. Queste altre massime di saggezza su come guardarsi e difendersi e tenersi lontani dal lamentatore professionista sono tratte da un manuale, Come riuscire a lamentarsi sempre perdendo tutte le opportunità, edito da Sperling e Kupfer, scritto da Enrico Bertolino, Luca e Laura Varvelli, da cui trarremo comunque altre indicazioni. Avremo anche l'autore in collegamento tra pochi minuti. Ma entriamo nel punto che vogliamo toccare. Già mi ha risposto Vitalba su Facebook, dando la sua lettura, la sua versione, dice: chi si lamenta per mestiere necessita in questo modo di trovare una propria identità. Pensaci, l'identità della vittima è sempre così ben definita da non richiedere approfondimenti. Il chi sono, dove vado, cosa voglio della vita non sono necessari. Sì, in effetti, il lamentatore già si pone in una sorta di aurea definizione, quella della vittima. Io sono una vittima e quindi tu fai parte della schiera dei carnefici, quindi tu devi sentirti in colpa. E piangendo, comunque, si riesce sempre a fottere l'avversario. In questa è stata fosa, dato che io, insomma, per i miei impegni di lavoro, ero, insomma, non avevo... Che lavoro? Che lavoro? Come campate? Sono a vostro onore. Io traffico. Io, insomma, me lo da fa, trotto. Io mi arancio a vostro onore, insomma. Abbiamo capito che vi arrangiate voi. No, andiamo avanti. Sto male, sto male. Io sono da mattina giù. A te. Sono da mattina giù e mi ha bloccato, ma mi ha inchiodato, ma... Sono da mattina. Io non ho temuto, vero? Io campavo da vostro onore. Sono da mattina. Se non c'è una posizione a quest'ora io stavo in America, stavo. Questa gioventù perduta. Guarda. Hai solo voi. Io ce l'ho voi, vai. Io là, grazie. Madonna mia, ma questo che... Questo è, l'avrete riconosciuto, Nando Mericoni, l'americano a Roma, questa volta di fronte al magistrato in Un giorno in pretura, film di Steno del 53. Una delle circostanze in cui il lamentatore professionista esprime il meglio di sé è quando si trova naturalmente di fronte a un giudizio. I pianti e le lamentele di Vanna Marchi e della figliola in attesa di giudizio definitivo ne erano un esempio. Il pianto disperato, l'attingere alle proprie disgraziate origini, alla propria vita faticosa, alle sofferenze, alle incomprensioni, a non essere capiti dalla società nella propria smisurata capacità di dare affetto e amore determina una vittima per professione. La vittima per professione in realtà potrebbe essere il nostro peggior carnefice. 800240024, quando e in che maniera vi siete incappati in lamentatori professionisti. Motivi per lamentarsi. Ricordatevi che ci sono tre livelli di lamentazioni. Il primo livello è costituito dalle classiche 3S: soldi, salute, sesso. I soldi sono per definizione pochi, la salute precaria, il sesso... Lasciamolo stare, è un ricordo di gioventù. Al secondo livello potete mettere le coppie di lamentazioni, così se non funziona la prima potete sempre usare quella di riserva. La famiglia e i parenti, gli amici e il partner, lo sport e gli hobby, la collezione di bottiglie di birra e i vasi di gerani sul balcone. Il terzo livello è quello più banale. Lavoro, tempo e governo. Su quest'ultimo livello non vi diamo consigli, proprio perché è troppo banale. Gabriella, buongiorno. Carissimo, buona giornata. Lei è una lamentatrice o ha a che fare con dei lamentatori professionisti? No, io ho 40 anni e ne ho avuti anche meno. Però meno di anni in un'altra vita? No, adesso in questa. Era una battuta sciocca, però volevo itinere a quello. No, no, fa molto ridere. Beh, insomma, mi devo fare solitico io. Allora, nulla, carissimo, a 40 anni uno tira le somme della propria vita e crede nei rapporti sbagliati e, appunto, come ha detto lei, fotte il prossimo, e mi sono trovata con due sole storie di persone che ho amato che in correlazione alla mia avevano il sottobosco di un'altra famiglia. Scoperto. E quindi adesso lei vorrebbe farsi compiangere da noi per questa sua... No, assolutamente, semmai prendo un angolo, lo scelgo, mi ci do delle testate io, perché non avevo capito che il lamentatore era nascosto appunto dal fatto che nessuno lo comprendeva, e sceglievo la strada appunto della compassione, di essere conquiscente al fatto di ritornare bambino perché aveva trovato una donna mamma chioccia, perché da quando ero bambina facevo la mamma la bambolina. Quindi lei è stata sedotta toccando la leva del compianto, sono poveraccio, non capito da mia moglie, disperato. Sì, no, non ha mai palesato il fatto di essere sposato, ma che non veniva capito dalla società. E quella leggera ombreggiatura sull'anulare sinistro che lei vedeva non aveva mai dato conto? No, che ombreggiatura, non aveva neanche l'ombra della fede o dell'imene, appunto, niente. Era solamente la mia curiosità che poi mi ha spinto, visto che si contraddiceva, a dire: ma come, alle 4 devi andare a ritirare un pacco, una cosa? Invece erano i bambini a scuola, ho detto: allora arrivederci. E dopo quanto tempo si è accorta di essere vittima del primo mentitore? Sono molto furba, scaltra e disgraziata, quindi dopo neanche 2 mesi. E il primo, il secondo? Neanche dopo 3 mesi, perché purtroppo hanno tutti uno stesso copione che seguono diligentemente. Neanche Clooney riesce a essere così bravo. Sono degli attori fantastici, meriterebbero l'essiccamento dei loro gioielli di famiglia. Beh, dopo aver colto il fiore della sua virtù e della sua carnale disponibilità, cosa fanno? Scappano o è lei a scoprirli? Poi sono io a scoprirli e loro a piangere come vitelli, a chiedere scusa, però non lo faccio più. Però lei adesso in questo momento, mi scusi se ho l'ardire di dirlo, ma nulla, sta compiendo la stessa operazione, si sta lamentando con noi di essere stata vittima di uomini lamentatori. No, ho detto che è arrivata. Cioè avrebbe quasi voglia, signora, di consolarla, di dire: povera signora. Ma neanche per sogno, no, non l'accetto. Sto dicendo che tirando le somme a 40 anni, dico, sono stata raggirata perché ho avuto il senso materno che non dovremmo avere da bambini, come le mamme non dovrebbero dare l'accappatoino ai maschietti oppure dargli le ciabattine, perché ecco i risultati. Va bene, signora, che devo dirle? Spero che la prossima volta si trovi un marinaio senza situazioni familiari ben definite che la faccia sognare senza bisogno poi di piangere le lacrime del vitello. Enrico Bertolino, buongiorno. Buongiorno. Ti ho tenuto in attesa fino adesso. Sì, io sto attingendo perle di saggezza al tuo libro, Come lamentarsi sempre. Hai sentito, la prima signora, la prima vittima del lamentatore professionista. Tu dici: chi si lamenta perde ogni opportunità. Ma sei proprio sicuro che alla fine non convenga fare i piagnoni? No, beh, lo diciamo anche sia io che Luca, che Laura, che abbiamo fatto questa analisi sui lamentatori, anche perché nella mia professione di lamentatori ce ne sono tanti. Ti parlo di professione, quella che per me è il lobby che è diventata professione, cioè la televisione, il lavoro, gli artisti. Lì ci si lamenta quando sei troppo popolare perché ti angosciano, poi dopo, quando non sei più popolare, ti lamenti della popolarità perduta. Che nessuno ti cerca, cercano gli altri. Sì, esatto. Poi quando ti cercano troppo non ti isoli, diventi ombroso, misogino. Cioè, è un lamento costante. Come mai che Buongiorno in questi giorni, che si lamenta tanto? Mai Buongiorno dovrebbe chiudersi in un'isola deserta, lui, Costanzo, un altro gruppo di persone felici di non avere più nessuno che gli rompe le palle. Invece hai notato ieri, scusa, esco fuori dal seminato ma troppo ghiotta, sia Costanzo che Mike Buongiorno erano contro Maria De Filippi, sulla Rai tutti e due, come te lo spieghi? Ma è una necessità di essere, di visibilità, cioè il lamento anche di colui che non aveva niente da lamentarsi, cioè il fatto che ti tolgano ogni motivo per lamentarti è un motivo per cui lamentarti. Cioè una pensione come quella di Buongiorno, penso che uno che lavora normalmente se la sogna, cioè neanche se fa 7 vite. Eppure l'uomo non riesce a togliersi dai maroni, cioè non riesce a starsene a casa, forse perché quello si lamenta della moglie, la moglie si lamenta di lui visto che è la sua gente. Siamo nei problemi totali, no, del lamento. Però vedi che in fondo il lamento permette anche al loro livello di riuscire a galleggiare e sopravvivere. Esatto. Nessuno si accorgerebbe di loro se non si lamentassero. È qui che diventa l'opportunità. Cioè l'opportunità, il lamento permette di essere vivi. Cioè, grazie al lamento esisti. Se non ti lamenti, sai, guarda quelli che fanno il loro lavoro fatto bene, tu ne sai qualcosa, no? Non li nota nessuno. Cioè, se Corona, chi lo notava se fosse rimasto il figlio del grande Vittorio Corona a scrivere magari su un giornale di provincia? Ecco, però tu hai detto una cosa molto giusta: lamentarsi aiuta a stare vivi, a sentirsi vivi, sì, ma a discapito del sangue e del fluido vitale degli altri, che è un vampiro il lamentatore. È ovvio, se tu c'hai in casa un lamentatore, questo si lamenta costantemente fino al punto in cui tu gli dici: guarda, fammi una cortesia, esci, e lui raggiunge il suo scopo, cioè esce, e uscendo trova qualcun altro su cui lamentarsi. La signora di prima era un dato eclatante di come a un certo punto tu adotti una persona, neanche fosse un koala, e te lo tieni in casa che continua a lamentarsi, non è produttivo, poi quando se ne va lamenti la sua scomparsa. Poi non possiamo fare a meno di notare che il lamentatore trova sempre un pubblico molto attento e molto desideroso di occuparsi di lui. Quella signora sappiamo bene che sarà recidiva altre 100 volte, cederà altre 100 volte a uomini sposati e piagnoni per poi avere il piacere di metterli alla porta. Ma guarda, noi abbiamo fatto un'analisi con Luca e Laura, che noi lavoriamo anche nelle aziende, no? A livello aziendale, quando si parla di rapporti con i clienti ad esempio sono personaggi con i quali che si lamentano. Il lamento del cliente di solito cosa porta? Dovrebbe portare a delle migliorie. Invece il lamento del cliente a volte cade nel dimenticatoio, ci si dimentica una cosa, invece che il cliente lamentandosi crea un marketing del passaparola negativo altissimo. Cioè, facciamo l'esempio del dentista: se tu vedi il dentista con quello che costa ti fa un buon lavoro, nessuno dice niente, ci mancherebbe, ho pagato una cifra. Se ti sbaglia un'otturazione tu te ne lamenti. Se te ne lamenti con un altro, con un altro, con un altro, il dentista non lo sa, ma in quel momento sta perdendo dei pazienti perché tutti fuori stanno dicendo che è un cane. Sentiamo Fernanda. Fernanda, buongiorno. Buongiorno. Fernando, scusi, Fernando, avevo letto male. Mi scusi. Dimmi. Lei è anche vittima, dire questo. Vittima di lamentatori o lamentatore? Tanto per definire. No, vittima, io sono una vittima. Cosa le hanno fatto? In che maniera? Qual è stata la tecnica? Allora, io ho 69 anni e ogni volta che parlo con mio coetaneo, come li porti bene, come li porti bene, eccetera, non si direbbe, eccetera. E lei si tocca le parti basse, naturalmente. Allora, io ero stanco di parlare con gli attributi in mano. Certo, giustamente. Da un certo periodo ho detto che ho dichiaro 10 anni meno di anni. E allora mi fa, ma non è che li porti molto bene. Ah, finalmente, ho detto io, porca mattina. Sono pari vostro, ho detto io. Comunque io, 69, lavoro ancora, sono un libero professionista e lavoro a pieno ritmo. Quindi anche legato all'aspetto fisico, alla salute, il lamentatore in realtà è sempre propenso a buttarsi giù. No, in cui cominciano a dire che come li porti bene, eccetera, loro ti fanno la loro lista. Allora, dei loro mali, in effetti. I loro mali, eccetera. Mamma mia, che roba! Allora, stanco di questo, ho detto, d'ora in poi dichiaro 10 anni meno, così almeno. Enrico Bertolino, in un momento di grande cosmesi e recupero e mummificazione fisica, quanto il lamentatore professionista gioca sul suo aspetto fisico? Mi sento giù, guarda come sono, faccio schifo, sembro vecchio. Quasi, il lamentatore lo cerca, nel senso, non si cura appositamente per potersi sentire dire ti vedo male oggi, in effetti sì, perché se gli dicessero ti vedo bene, come giustamente accennava Fernando prima, non c'è più nessuno, ti disarma questa, il fatto che ti vedo bene non puoi più dire niente, ti vedo bene, tu non lamentarti che stai bene, è beato te. Sono quelli che per esempio ti dicono quando cambi posto di lavoro, beato te, e faccio, ma tu non puoi cambiarlo, io no, c'ho il mutuo. Il mutuo cerca di estinguerlo, cioè, il lamentatore ha bisogno, il professionista lamentatore, di uno stato fisico deplorevole o quantomeno precario, perché altrimenti non, e allora fa di tutto per ottenerlo. Capita con ex colleghi di grandi aziende, direi beato te che sei uscito, finalmente libero, dico tu che stai a fare dentro, lo schiavo, ma sai, in fondo non ci si riesce a staccare. Il lamentatore comunque, come sempre, deve sempre dare spessore alla sua esistenza facendosi compiangere dagli altri. Grazie. Non si nota, il concetto è sempre la visibilità, cioè chi riesce a essere visibile per le opere che fa e chi riesce a essere visibile solo per il lamento che è esterna. Grazie Enrico Bertolino, in bocca al lupo per tutte le cose che stai facendo. Stiamo analizzando le varie categorie dei lamentatori professionisti, coloro che come vampiri ci succhiano l'esistenza, facendosi compiangere e mostrandoci quanto noi siamo fortunati rispetto alla loro dannata esistenza, ma in realtà approfittandosi della nostra linfa vitale. Qualcuno mi fa notare che sul mio profilo Facebook, oggi a sottolineare il lamentatore professionista, ho messo la mia foto che abbraccio la lapide di un lebbrosario, ma l'ho fatto apposta proprio per drammatizzare quello che tende qui a stigmatizzare questa mattina. Qualche commento di ascoltatori che mi seguono via web. Dunque, vediamo un po'. Lamentarsi, dice Massimiliano, corrisponde a fingersi morto nel mondo degli animali. Quando tutti i suoi simili si avvicinano, il finto morto parte all'attacco. Vitalba. E poi chi fa la vittima comunque il suo scopo, non troppo recondito, di indurre i sensi di colpa nelle persone con le quali si relaziona. E quale strumento di controllo e potere più forte e pervasivo dell'individuo? Induzione del senso di colpa, giustissimo. Poi Katia dice c'è solo un modo per difendersi da costoro, all'acme della lamentela suggerire in modo perentorio non capisco perché tu non ti suicidi. La piantano subito, ho sperimentata e ha avuto successo, lamentarsi per attirare l'attenzione su di sé è una tecnica di mind fucking, cioè di fregare la mente, come tante altre. Tutti la apprendiamo inconsciamente da piccoli. La scelta adulta sta poi nel decidere se continuare a farne uso oppure no. Beh, l'istigazione al suicidio è anche un reato piuttosto grave, quindi io non persisterei in questa direzione. 800240024, quanto, come, in che maniera avete mai incontrato lamentatori professionisti? Il lamentatore cronico è quello che, se lasciato solo dal collega, che preferisce sobbarcarsi lo straordinario per poter lavorare da solo e senza i soliti lamenti, si dirige dal capo lamentandosi di essere ignorato e boicottato dal collega. Viceversa, se il collega, stufo di dover fare tutto da solo e di sorbirsi per giunta i lamenti di chi non fa nulla, lo sovraccarica di lavoro, ecco che il nostro lamentatore cronico si rivolge al sindacato o di nuovo al capo, lamentandosi di essere sfruttato ingiustamente solo perché difende le sue ragioni e i suoi diritti che, nel suo caso, arrivano prima rispetto ai suoi doveri. Davide, buongiorno. Lamentatori, buongiorno. Professionisti in ambiente di lavoro. Lei ne sa qualcosa? Sì, ne so qualcosa. Io lavoro come precario, con un contratto a tempo determinato, quindi in una scuola, quindi in un ambiente pubblico. Ok? E in pratica vedo alcune persone attorno a me, nella fattispecie, se non me ne voglia la categoria, i bidelli, lamentarsi in continuazione. Parlo di persone con contratto a tempo indeterminato, gente che ha 50 anni, lavora lì da una vita e che non fa quasi nulla e che continua a lamentarsi incessantemente del lavoro, di tutto, e dello Stato e del pubblico e dello stipendio e degli incentivi e degli incentivi che non ci sono, i premi incentivanti che mancano. E questo alle orecchie di uno come me, che è a tempo determinato, precario, con la spada di Damocle del 30 giugno. E non si lamenti, sennò diventa un lamentatore anche lei, però attenzione, è un filo sottilissimo. La denuncia del lamentatore non deve far ricadere in una lamentazio, sennò... Però mi rendo conto che io, finché aspettavo al telefono, mi rendevo conto di aver telefonato per lamentarmi del lamentatore. Lo so, però vede, è una sorta di infezione virale. Bisogna recidere drasticamente il legame con ogni lamentatore e essere sorridenti, anche se so che è molto difficile in certe condizioni, o perlomeno riuscire a cambiare il tipo di testimonianza che si fa delle proprie condizioni non sempre felici, non in una lamentela, perché sennò ci si accoda al tristissimo corteo dei lamentatori, che è gente che è veramente poco allegra. Lo stesso lamentatore cronico, una volta a casa, si lamenta per il troppo lavoro. Ma se per errore il partner prova a dare dei consigli, inizia a lamentarsi dicendo con tono lamentoso e irritato frasi del tipo «Ma che ne sai tu del mio lavoro? Non hai mai saputo niente di me!» oppure «Vorrei solo che tu provassi quello che sto passando io là dentro!» Oggi le coppie moderne dove si annidano i lamentatori cronici possono ricorrere alla separazione o al divorzio. Anche in questo caso il lamentatore cronico va a nozze, in senso figurato ovviamente, dato che da quel momento in poi potrà lamentarsi di essere stato abbandonato dal partner nel momento più delicato della sua vita e che dunque aveva ragione quando si lamentava di essere un incompreso anche in casa. Dopo qualche anno, generalmente il nostro lamentatore cronico non resiste alla solitudine e anche solo per avere qualcuno con cui lamentarsi per la precedente esperienza, si risposa e ricomincia il ciclo dei lamenti come nella precedente unione. Devo dire, è un morbo veramente complicato e poliforme quello del lamentatore, con le sue cronicizzazioni, con le sue ricadute, le sue recidive. Colui che si lamenta in famiglia al proprio lavoro è una figura che conosco bene, perché molto spesso io lo faccio e ne faccio pubblica ammenda questa mattina. Giulia, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Volevo dire che io ho mia mamma in famiglia che ha un po' questo tipo di personalità e... Io non l'ho mai vista mia madre un po' sorridente, un po' di buon umore, un po'... Capita, guardi, anche nelle migliori famiglie, stia tranquilla. Sì, no, ma diciamo che questo, anzi, mi ha aiutato a crescere diversa, perché io l'unica cosa che non vorrei è essere come mia madre, diventare così. Anche se l'adoro e ho un bellissimo rapporto con lei, però, insomma, devo cercare ogni tanto anche di scuoterla, di farle capire... Che deve vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Sì, anche le meravigliose fidanzate del conte Dracula hanno con lui un buon rapporto quando porgono la vena giugulare palpitante di sangue, però lui prende, ci infila i canini e succhia il sangue. Ascolta, però volevo dire, Perché non mi piace tanto parlare di mia madre, mi sembra quasi di parlarne male. E poteva dire la mamma di un'amica, così si sollevava la coscienza. Vede il senso di colpa, non è che instiga il lamentatore professionista? Come, scusa? Il senso di colpa che riesce a instigare un lamentatore professionista. La povera mamma, ne hai parlato alla radio, lei dice che si lamenta, lei che ti ha dato la vita. Già immagino il film che è partito nella sua testa. Sì, certo, però una cosa che invece mi dà molto fastidio, diciamo, in generale, sono le persone che vanno in televisione a lamentarsi del proprio stato sociale. Quello è un mestiere. Le famiglie numerose con 8 figli che vanno a presentarsi e a dire che lo Stato non li aiuta. Io dico, a un certo punto, tutti se avessimo 8 figli saremmo in grande difficoltà. Io ne ho avuto uno per scelta, perché ho deciso di non permettermene altri. Se ne avessi 8, certo, sarei in difficoltà. Sì, quello è il caso quasi umano, diciamo, una categoria di professionisti che hanno capito che l'elaborazione pubblica del dolore, dell'emarginazione, della sofferenza, ripaga notevolmente, quindi lo fanno per mestiere, non bisogna... Mi fastidisce moltissimo. Lo so, ma il suo fastidio diventa il crogiolarsi di tanti falliti consolatori di lamentatori. L'ha visto che ogni lamentatore ha comunque qualcuno che lo sta a sentire, come ogni sadico trova il masochista. Cerca di capirlo. È chiaro, che cerca di capirlo, perché a sua volta anche lui ha un appagamento nell'essere vittima di un lamentatore. E poi esistono forme pubbliche e plateali di appagamento, di questa sorta di lussuria, di sentirsi bene di fronte alle disgrazie altrui. Quindi il lamentatore, da quel punto di vista, assolve un servizio pubblico, fa sentire noi tutti più fortunati rispetto alla sua disgrazia cosmica, quindi in fondo dobbiamo essere grati anche a lui. Ersilia, mo pure il lattaio non ce l'ha più niente a buffo, ma dà solo mezzo litro di latte, ti riempie la bottiglia. Dottor, mi dica la verità, non me nascondo niente, come sta sta creaturina, sta grave, dottor, sta grave? Su, non è il caso di fare le tragedie. Dice bene. Eventualmente somministreremo degli antibiotici. Antibiotici, dottore? Ma prima cosa, bisognerebbe fare le analisi delle urine. Le urine? Dai, pure le urine, sentite, Ersilia, devo portare le urine all'ambulatorio. E come faccio, allora? Non ci posso andare, sono le due. Ma nonni, così ci devi andare, facce, no? Sì, devo andare, sì. E all'ambulatorio? All'ambulatorio ci vado io. E già, e le creature che fanno? Restano a casa? Senza di te. Ma gli dà un'occhiata lei? Vedi, non mi puoi fa presto. Vedere i ragazzini malati per fare effetto che vorrei morire io al posto loro. L'ascoltatrice ha parlato dei lamentatori professionisti, dei disgraziati cosmici, coloro che vanno a rappresentare in maniera plateale, quasi teatrale, la loro disgrazia in televisione, perché la televisione di questo vive, questo è il suo tessuto connettivo. Pensate, nel 63 Dino Risi, nel film I Mostri, che oggi ha un, mi sembra, contemporaneo remake, se ne parla oggi nei giornali, cioè questo Gassman, afflitto da 1000 malattie, afflitto da 1000 disgrazie, anche lui con una famiglia numerosissima, viveva in una stamberga, doveva uscire di casa, doveva far sentire in colpa la famiglia perché non lo faceva andare in questo luogo in cui necessariamente doveva andare, e poi era lo stadio per andare a vedere la partita di calcio. Piuttosto, Nicola, il dottore oggi so già 4 volte che viene, bisognerà tagliare qualche cosa, lui non richiede, ma... Vabbè, tutto quello che c'ho, 900 lire, dai al dottore, vuol dire che là non ci vado per niente, vuol dire che era il destino mio, porco destino. No, Nicola, te devi sacrificare, riprendi. Ma io ci dovevo andare là, come faccio? Ci devi andare e ci vai, ma non no, ti devi sacrificare. Ma come faccio, che pure se non paghi il dottore ci stanno le medicine, gli autobiotici, ci stanno le urine, ci stanno l'anima, i mortacci. Sì, non hai capito, no, al dottore gli rideremo un'altra volta. Sì. Quelle altre cose vorrà dire che in qualche modo ci arrangeremo. Dottore. Ecco, il lamentatore professionista è improvvisamente guarito sugli spalti dello stadio a fare il tifo, tutte le malattie, la famiglia disgraziata, la moglie con le ciabatte, i debiti con il dottore dimenticati. Paolo Corleone si sta lamentando perché ho portato di qua in studio il telecomando dell'aria condizionata e lui sente caldo. Fabrizio Intonti si sta lamentando perché ha passato una notte in bianco e vorrebbe farmi credere che ha avuto il mal di pancia. Tutti i lamentatori mi stanno circondando e mi stanno soffocando. Ruggero, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Forse sono un lamentatore di professione un po' settoriale. Ah, lei è un lamentatore? No, finalmente è uscito alla luce. Certamente. Ah. Anzi, gli amici mi chiedono se lo faccio per partito preso, soprattutto verso il conto dei ristoratori, quando non mi sembrano congrui, ovviamente. Lei dice che ha mangiato male? Come? Lei dice che ha mangiato male? No, ma domani il conto che non è congruo rispetto a quello che mi è stato servito. E in tutti quanti, guardi, scatta, ma proprio in tutti posso dire, un senso di colpa adducendo colpa alla cameriera, colpa della confusione, colpa di qualche equivoco, perché in genere i conti li ho sempre visti dopo, o del cugino o dell'amico, e allora telefono spesso e volentieri e tutti quanti mi invitano a ripassare, che in qualche modo rimedieranno. Guarda, io posso dire una cosa, Ruggero, la invidio veramente. Pensi, io sono quelli che al ristorante si vergogna di dire che non ha fame e ordina cosa che poi non mangerà, pur di non contraddire il cameriere. Quindi ho grande ammirazione della sua faccia tosta di riuscire a lamentarsi del conto. E poi nella vita privata come esprime la sua meravigliosa arte di lamentarsi? Nella vita privata? Sì. No, nella vita privata sono molto più tranquillo e rilassato, anche se, non so, posso averla con i vicini per il pattume, voglio dire, una lamentela continua perché non mettono... Ma scusi, questo è un rompicoglioni simplex, non è un lamentatore. Qual è la fattispecie? Allora potrò essere un rompicoglioni simplex, però... ma non è un lamentatore, è un'altra categoria. È interessante come reperto antropologico, ma è più diffusa, è più comune. Cioè lei non parla della sua malattia, della sua disgrazia, del suo sentirsi vecchio, del suo sentirsi malato, mai? No, vecchio mai, perché dico sempre che sono diversamente giovane. Ecco, allora è un finto lamentatore, l'abbiamo sgamato. Sono un finto lamentatore. Sì, è che semplicemente rompipalle. Quindi dintorni, e ripeto, con gli amici, mi viene affibbiato questa etichetta. Sì, ma lo dicono, è un eufemismo, secondo me vorrebbero dire un'altra cosa. Comunque grazie Ruggero. Silvia, buongiorno. Pronto? Silvia. Ah, tocca a me, sì. Sì, purtroppo sì. C'è un... Si sente stanca? Aspetti un attimo, aspetti un po', aspettare un po'. Sì. Che chiudo la mia radio. Sì. Mi ero dimenticata di chiuderla. Ecco, sì. Pronto? Eccola, sì. Mi ero dimenticata di chiudere, scusatemi. No, si figuri. Dunque, intanto io devo per forza dire che lei è molto simpatico e bravo, proprio bravo, ha trasformato la trasmissione... Vabbè, adesso non c'entra niente, signora. No, c'entra perché si fa ascoltare molto bene. Ma lei non ha niente di cui lamentarsi? No, io no, ma mi lamento per un'altra categoria. Non dice noi poveri vecchi? Che penso, no, perché io non mi sento così, cioè io vivo bene. Non ha avuto nessuna disgrazia terribile? Le amiche... C'è una categoria di amiche pestifere, malefiche, bisbetiche, ecco, che schiavizzano. Io mi sento schiavizzata da una persona amica, diciamo così, che si lamenta continuamente. Ogni volta che anche le telefono, sto male, sola, sono vedova, come se fosse solo lei vedova. E quali sono i problemi della vedova? E obbliga le persone a farle dei favori, cioè o le telefonate tutte le mattine, perché lei si sente sola, lei si sveglia presto la mattina, gli viene la depressione, oppure per farsi accompagnare in cose in cui lei potrebbe andare da sola. Non solo io sono schiavizzata, ma so che ne sono schiavizzate. Scusi, ma non può dire, guarda cara, è ora che schiatti, non mi chiamare più perché il tuo destino... Bene, lei sa così tanto bene lamentarsi. Sì, però signora, scusi. Il rimorso, cioè queste persone sanno trovare le persone a cui possono fare questo. Io sono una persona ascoltatrice, ecco. Allora dopo mi viene il rimorso e io dico, Alanda, tanto per farle un piacere, così, però è una cosa... Sì, lei adesso mi ha fatto un quadro perfetto della vittima e del lamentatore, vittima consapevole, lucidamente avviata verso il suo martirio, quindi probabilmente questo le dà soddisfazione, quindi auguri, continui a dare ascolto alla sua amica che le porterà via lentamente, giorno dopo giorno, la serenità. Giovanna? Sì, pronto? Pronto? Chi sta subendo lei di lamentatore? Dunque, come dicevo prima la ragazza che mi ha risposto al telefono, mia madre è una lamentatrice cosmica. Mia madre, insomma, ha divorziato quando io ero molto piccola, io ho 28 anni, quindi molto tempo fa, e da quel momento è iniziato tutta una serie si è ficcata in tutta una serie di circostanze dalle per cui lei abbia il diritto di lamentarsi. Quindi si lamenta perché è sfortunata, si lamenta perché non sta bene, dovrebbe fare, insomma, degli esami clinici, e la mia risposta è sempre, vabbè, ma falli, che problema c'è? Sì, l'ipocondria è molto legata ai lamentatori, soprattutto i genitori che vogliono far pesare ai figli il fatto che li hanno messi al mondo, li hanno tenuti in grembo per 9 mesi, li hanno allattati, li hanno svezzati. Ma non solo, in un certo senso mia madre mi considera responsabile di tutta una serie di sfortune legate poi al divorzio, e lei aveva molto giovane, aveva 16 anni quando mi ha avuta, quindi insomma la responsabile in un certo senso di tutte le sue sfortune. Per averla avuta a 16 anni probabilmente sua madre non è che si era fatta una passeggiata a cogliere le margherite, quindi c'era stato un motivo per cui l'ha avuta a 16 anni. Proprio. Allora di cosa si lamenta? Non si può avere la botte piena della moglie ubriaca. Però vorrei dare, prima che la sigla inesorabilmente me ne tolga la possibilità, un decalogo. Per voi lamentatori, visto che oggi vi stiamo dando addosso, vogliamo anche gratificarvi, vi diamo una sorta di messaggio di rinforzo della vostra capacità di segare l'anima al vostro prossimo. Semmai non aveste piena consapevolezza del vostro potere malefico, eccovi un consiglio. Per lamentarvi al meglio, scrivete ciò che i vostri amici hanno di più o di meglio rispetto a voi. Appendete questo elenco sul frigo. Ricordate quello che avreste voluto fare e avete perso l'occasione di fare. Appendete questo secondo elenco sulla porta del bagno. Classificate in ordine decrescente tutto ciò che non siete più in grado di fare. La gara di Rutti, 5 km di corsa, la bevuta dei 3 litri di birra, il ballo del mattone, alla testiera del letto. Leggete e ripassate, così potrete essere finalmente lamentosi e infelici. Ecco, per i lamentatori la formula di poter continuare, per poter continuare a vita a lamentarsi e rendere infelici gli altri, per Teresa invece la formula per liberarsi dal lamentatore. Lei è la prima persona che mi ha detto come ha fatto a togliersi dalle scatole. Ce lo dica in 30 secondi. Teresa di Salerno, sì. Provincia. Praticamente i lamentatori erano in famiglia, soprattutto mio padre, che si lamenta da tutto da quando era giovane. E praticamente io ho deciso di vivere da sola. Mi sono liberata dall'inculcazione dei sensi di colpa e di tutto e vivo bene. Però una voce un po' triste, perché Teresa? No, non è la voce triste, però siccome non mi voglio lamentare non voglio dire che ho l'influenza. Ah no, dica che stia bene allora. Sto bene. Ecco, la lamentatrice... Infatti tra poco uscirò, mi metterò al meglio perché io voglio sempre apparire al meglio, anche se adesso ho l'influenza, però devo uscire. Che allora, bene. Il lamentatore che ha costretto Teresa a questo drastico cambiamento di vita avrà sulla sua coscienza la polmonite perforante che subirà, che perché nonostante l'influenza uscirà all'aperto per dimostrare che non bisogna lamentarsi. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0. 2.0.